Sport e motori con Massimo Di Scienza. 35 minuti dopo le 16, buon pomeriggio amici di Radio 24, buona domenica, puntata ricchissima di sport e motori perché oggi si è corso sia in Formula 1, il Gran Premio di Suzuka in Giappone, la doppietta Red Bull, sia per quanto riguarda il Moto Mondiali, classe MotoGP, Moto 2 e 125, il Gran Premio della Malesia a Sepang. E partiamo proprio da qui, dal Moto Mondiale, perché oggi c'è da celebrare almeno tre trionfi. Il primo, quello di Valentino Rossi, che è tornato al successo nella classe regina dopo un lunghissimo digiuno, una vittoria importante, importantissima per il pilota di Tavuglia, che si è imposto davanti a Dovizioso e davanti a Jorge Lorenzo. E siamo al secondo trionfo perché Jorge Lorenzo si è laureato grazie ai punti conquistati oggi a Sepang, campione del mondo classe MotoGP con 313 punti, imprendibile ormai per tutti gli altri. Terzo e ultimo successo da festeggiare, quello di Tony Elias, altro spagnolo, altro campione del mondo. Qui siamo in classe Moto2, dove peraltro ha vinto un italiano, Roberto Rolfo, davanti a De Angelis e a Iannone. Quarto Elias, anche qui punti utili per conquistare il titolo mondiale. Subito linee aperte all'800 24 0024, sms al 349 238 6666. Beh, oggi la domanda non può che essere quella relativa alla, per quanto riguarda la MotoGP, alla legittimità del successo di Jorge Lorenzo nel mondiale. Lui, il vero campione del mondo di questa stagione, ha meritato fino in fondo il titolo, oppure Valentino Rossi, se e con tanti se non fosse accaduto quello che è successo al Mugello, senza incidente, insomma in una stagione diversa, avrebbe meritato invece di vincere il mondiale. Insomma, chi è più forte tra Valentino Rossi e Lorenzo? Valentino è il campione mondiale, come dire, morale di questa stagione. Vogliamo le vostre risposte via sms al 349 238 6666 e al numero verde 800 24 0024. È un piacere salutare i miei compagni di viaggio di oggi, per dovere di ospitalità. Partiamo da Sepang, l'inviato del Corriere della Sera, Alessandro Pasini. Per noi buon pomeriggio, per te buonasera Alessandro, e grazie per averci raggiunto. Buon pomeriggio a voi e grazie a voi per avermi chiamato. Siamo insieme anche a Carlo Vanzini, nostro compagno di strada abituale della domenica, inviato di Sky Sport, prima firma dei motori di Sky. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora io partirei da Alessandro Pasini. Noi abbiamo lanciato il nostro sondaggino, giochino, insomma un po' per divertirci anche via sms e al telefono. Se diciamo che Valentino dopo la gara di oggi merita il titolo almeno morale di campione del mondo 2010, e tu sei d'accordo oppure la consideri una butade, una provocazione? No, non è una provocazione. Io guarda, ti dico, dividerei in due parti la mia risposta. Allora, il campione morale sì, però io sui titoli morali sono sempre un po' perplesso. L'ha vinto Lorenzo, l'ha vinto meritatamente, perché comunque chi non c'è, perché evidentemente ha anche delle colpe. Questo non lo dico io, l'ha detto anche Valentino Rossi nei giorni scorsi, ha detto chi non cade non si fa mai male. Ed è una verità, insomma, nei motori l'incidente fa parte del gioco ed è anche un errore di chi fa l'incidente, per l'appunto. Quindi, considerando soprattutto quanto Lorenzo fosse abituato a cadere in passato e quanto invece sia stato in piedi quest'anno, anche questo è un merito. Quindi, in questo senso, io direi mondiale meritato. Se invece tu prima lo dicevi, dici chi è il più forte? Ecco, Moteghi e oggi hanno dimostrato che il più forte motociclista al mondo rimane Valentino Rossi, e quindi poi alla fine il cerchio si chiude. Se fosse stato sano e se avesse fatto quelle quattro gare che non ha fatto, probabilmente staremmo a raccontare un'altra storia. Ecco, quindi io direi mondiale legittimo, ma è chiaro che una piccola ombra che non cancella i meriti di Lorenzo, ma che insomma casomai fa aumentare i rimpianti di Rossi e di tutti i suoi tifosi, insomma naturalmente c'è. Quello che ha fatto Valentino a Moteghi e quest'oggi a Sepang, a Moteghi ricordiamo in un duello straordinario, epico insomma per mille significati, con Lorenzo, e oggi tornando alla vittoria, tra l'altro anche qui simbolicamente proprio nel giorno della festa di Lorenzo, è qualcosa di molto rossiano e molto vicino alle grandi imprese del suo passato, e che forse fa ben sperare tutti i suoi tifosi, anche la parte di ducatisti che adesso lo ha appena abbracciato in un 2011 nuovamente ai suoi livelli. Al 349 238 6666, già tantissimi gli sms da un ovvio Valentino e punto esclamativo, che insomma risponde a entrambe le domande che abbiamo posto. C'è anche la risposta di Sandro da Vittorio Veneto, che dice Lorenzo ha meritato proprio perché non è caduto dovuto al Mugello, quindi in qualche modo sottolineando anche quello che ci diceva Alessandro Pasini da Sepang. Poi ancora Lorenzo ha meritato, Valentino però rimane il migliore. Certo che Pedroso e Dovizioso lasciano ben sperare per il prossimo anno. Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport, provocazione la nostra se diciamo che Valentino Rossi è ancora il più forte dell'otto oppure no, pure c'è del vero? Ma io sono d'accordo nel dire che chi lascia il nome nell'albo d'oro è il campione, quindi ha vinto senza dubbio Lorenzo il titolo mondiale e si merita questo titolo perché nella stagione delle cadute, degli infortuni, delle difficoltà lui è quello che è rimasto in piedi e si è giocato questo titolo e se l'è vinto. Io stavo guardando anche in base a quello che stavate dicendo le classifiche delle prime tre gare quando Valentino Rossi era a pieno regime prima del Mugello, aveva già subito l'infortunio alla spalla. Beh, partendo dal Qatar, Valentino Rossi, Lorenzo, Dovizioso, la classifica di quella gara. Poi il Gran Premio di Spagna, Lorenzo, Pedrosa, Rossi. Poi il Gran Premio di Francia, Lorenzo, Rossi, Dovizioso. Quindi Lorenzo e Rossi sono divisi due vittorie e sono sempre andati sul podio. Quindi avremmo assistito probabilmente a un mondiale testa a testa straordinario tra loro due. È una sfida che a questo punto dobbiamo aspettare, dobbiamo rimandare alla prossima stagione. Alessandro, allora insomma un peccato esserci persi confronti così serrati come quello di Moteghi per tutta la stagione. Forse questo è il motivo di maggior rimpianto di questo 2010 che sta per concludersi. E un altro ancora, cioè il fatto che noi quest'anno, e l'avevamo presentato così infatti un po' tutti, avevamo questa grandissima occasione, cioè quella di vedere una sfida fra due piloti con la stessa moto, che è un po' quello che anche al bar, no, ci si chiede sempre e tutti vorrebbero vedere, no? Dice, ah, se avessero gli stessi mezzi, no? Perché siamo abituati a vedere i piloti, a sentire, ascoltare i piloti sempre tirare in ballo, no? Ah, ma io avevo delle gomme, io avevo delle moto, cioè dei mezzi diversi dai tuoi, eccetera eccetera. Ora, nell'epoca del monogomma, con la stessa moto, eccetera eccetera, sarebbe stata veramente la sfida epocale. Se vogliamo, la sfida che poteva dire davvero chi è più bravo, insomma. Purtroppo questo non c'è stato. È vero, oggi Lorenzo ha detto, beh, io sono contento, ho battuto Valentino con la stessa moto. È vero, tecnicamente è vero, però insomma rimane quello che stiamo dicendo adesso, cioè questa sfida non si è vista. Ecco. L'anno prossimo si vedrà, io mi auguro, ci auguriamo tutti gare come oggi. Però saranno però con moto differenti, quindi tornerà tutto come è sempre stato, insomma, quindi uno dirà, beh sì, però forse la Ducati va meglio, sì, però la Yamaha va meglio, e quindi non avremo più questa opportunità di ripartire in qualche modo da zero che avremmo avuto quest'anno. Questo almeno è l'impianto mio, ma credo anche di molti appassionati di motociclette. Condivisibile. Al 349-238-6666 ancora vale il numero uno, non si discute, il campione è lui. E poi Davide Tacomo, e ti giro questa considerazione, Alessandro, ma anche a Carlo Vanzini. Lorenzo è un campione, sì, però psicologicamente lui dice Davide, è a terra, ha lasciato il podio voltando le spalle a tutti, è solo un capriccioso. Carlo Vanzini, poi sento anche Alessandro, che personaggio è Jorge Lorenzo? Può sostituire anche dal punto di vista mediatico un Valentino Rossi che al di là del trasferimento monstro di questa stagione, al di là del fatto che andrà in Ducati, quindi insomma avrà tutti gli obiettivi puntati su di lui, è comunque nella parte finale di una straordinaria immensa carriera. Cioè Lorenzo può essere anche mediaticamente il nuovo Rossi, Carlo Vanzini? Ma io credo che di Valentino Rossi ce ne sia uno e tutti gli altri sono nessuno. Comunque, già sentita questa, Carlo. Comunque Lorenzo ci ha provato, quasi annegava per imitare i modi di festeggiare di Valentino Rossi. No, a parte questo, credo che la Spagna in questo momento stia impazzendo per Lorenzo, quindi ha sicuramente un pilota e un personaggio che può diventare, sì, può ricalcare in qualche modo la carriera di Valentino Rossi. Da un punto di vista mediatico, ripeto, secondo me Valentino Rossi in tal senso è stato unico, come è stato unico, faccio sempre questo esempio, Alberto Tomba nello sci. Sono arrivati altri campioni come lui, ma non come lui nel comunicare o nel far diventare così importante lo sport che praticava, in quel caso lo sci tomba, in questo caso il motociclismo, Valentino Rossi. Comunque siamo di fronte a due personaggi che se la giocheranno e sarà bello. Io l'avevo detto quando Valentino Rossi aveva firmato per la Ducati, il mio dubbio è l'età, di Valentino Rossi, la reattività, quindi passano gli anni e in modo inconsapevole la reattività anche dell'atleta cambia. Oggi Valentino Rossi ha dimostrato, infatti ho scritto così per divertimento una sorta di editoriale, da nonno a primo, perché il primo giro era nono, ho fatto questo giochino, il nonno è tornato a essere primo e oggi credo è stato fantastico. Credo che Lorenzo oggi abbia alzato un po' bandiera bianca nei suoi confronti, non tanto perché non ne aveva, ma voleva evitare nel giorno del mondiale il dover cedere veramente le armi a Valentino Rossi, quindi ha fatto quello, ha fatto pensare a tutti di aver pensato al mondiale. Dovizioso secondo me invece soffre ancora il carisma, la forza di Valentino Rossi, perché secondo me Dovizioso oggi qualcosa in più poteva fare con Valentino Rossi. Alessandro, lascio a te la conclusione di questo primo blocco dedicato alla MotoGP, insomma ancora un paio di considerazioni e poi l'ultima domanda, siccome stamattina scrivevi sul Corriere della Sera Valentino ieri ha annunciato che avrebbe fatto i complimenti di persona a Lorenzo, vogliamo sapere se questo abbraccio, questi complimenti ci sono stati poi a Sepang dopo la gara. Complimenti ci sono stati, sia in pista, proprio motori ancora accesi mentre Lorenzo stava avviando i festeggiamenti, sia poi in sala stampa con una pacca sulla spalla. Insomma, i due chiaramente non sono amici, l'ha ricordato anche Lorenzo, ma insomma Valentino ha fatto quello che si fa in questi casi, insomma, e mi sembra il minimo. Quanto a quello che si diceva prima, anch'io sono d'accordo naturalmente sul fatto che uno come Valentino è irripetibile, esattamente come Tomba, che appunto il caso sempre citato, quindi ci sta. Credo anche che dovremmo però proprio noi evitare di cadere anche spesso in queste considerazioni. Noi ormai cerchiamo il personaggio nello sportivo e proprio Dovizioso una volta mi diceva, visto che l'abbiamo citato adesso, dice: ma io in fondo sono un pilota di moto, mi chiedono di essere un pezzo. Certo, Dovizioso non vince né come Valentino né come Lorenzo, ma comunque come prospettiva dice: io insomma sono un pilota, mi chiedono di essere che cosa, un personaggio, insomma Valentino ce n'è uno solo. Ecco, devo dire che chiedere a Lorenzo di essere come Valentino è impossibile. Lui da un lato cerca di valentinizzarsi e ogni tanto incappa in qualche inciampo, insomma così. D'altra parte invece però ha una sua personalità molto consolidata, è un ragazzo molto in gamba, intelligente, che soprattutto, questo mi sembra l'aspetto più interessante, ha saputo cambiare nel corso degli anni, perché lui quando arrivò nel motomondiale era uno dei ragazzini più insomma antipatici, scontrosi, un orso insomma che non si faceva ben volere neanche dai meccanici e dai propri compagni, ed è diventato insomma un uomo che è cresciuto, ha saputo lavorare su se stesso e trovare diciamo una serietà. Ora Jorge è un ragazzo anche simpatico con cui è piacevole chiacchierare, anche non di moto, quindi questo mi sembra un dato significativo, un ragazzo che ha una sua personalità ben definita. Probabilmente dal punto di vista mediatico non è come Valentino, anche per noi italiani, poi non dimentichiamo, perché come giustamente si diceva in Spagna Jorge chiaramente il suo seguito e piace molto. Pensate un po' che la loro prospettiva era quella di avere Pedrosa come campione del mondo, insomma voglio dire, da questo punto di vista loro ci hanno guadagnato veramente tanto. Guardate, è un bel personaggio, a me piace e io credo che insomma andando avanti in futuro, perché io mi auguro altri bei due anni di duelli, insomma ci sarà da divertirsi. Naturalmente anche lui ha le sue cadute, come per esempio la polemica di Moteghi con Rossi, ecco, se la poteva evitare, però insomma anche Valentino nel corso di tutti questi anni ogni tanto qualche stupidata, sì, diciamo, l'ha detto, l'ha fatto, polemico, ecco. Sono ragazzi e poi le diciamo tutti nella vita, quindi insomma però è un bel personaggio quello che è arrivato insomma sulla vetta, meritatamente, ripeto. Grazie ad Alessandro Pasini, inviato del Corriere della Sera, segue da tempo e con grande abilità il mondo della MotoGP, del motomondiale. A presto Alessandro, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Adesso traffico, poi torniamo insieme per parlare di Formula 1. Sport e motori. E ovviamente continuate a scriverci al 349-238-6666 sull'argomento del giorno, almeno per quanto riguarda la MotoGP. Chi è più forte, Lorenzo o Valentino Rossi? Scrive Roberto da Perugia. Il confronto tra Vale e Lorenzo a parità di moto, però, c'è già stato l'anno scorso. Qualcuno si ricorda com'è finita? Eh beh, decisamente. Però, insomma, allora, Roberto, dobbiamo dare anche atto a Lorenzo che ha in questi ultimi 12 mesi proseguito e completato un percorso di maturità e di crescita non indifferente. Poi c'è un paragone, sempre che ci arriva via SMS, a mio avviso poco calzante, però per l'amor del cielo possiamo discutere. Lorenzo ha meritato il titolo, ma ricorda lo scudetto dell'Inter vinto per mancanza di avversari dopo Calciopoli. Diciamo che in quel caso la mancanza di avversari era per motivi diversi, stavolta ha giocato molto la fortuna, perché due infortuni come quello di Valentino Rossi e quello di Pedrosa, non dimentichiamolo, che salta la parte finale della stagione quando teoricamente poteva essere ancora in lizza, hanno pesato sicuramente sulla corsa al titolo. Lo vogliamo sentire proprio 30 secondi di Valentino Rossi prima di passare alla Formula 1? Grazie Pietro, vai. Quando ho visto che avevo 45 gare con la Yamaha ho detto, cioè, devono essere 46 in qualche modo. Però è stato più difficile del previsto, non è, nel senso, è stato difficile perché da quando sono tornato ho fatto molta fatica. Ringrazio tutti, ringrazio la Yamaha, ringrazio tutto il mio team. Ieri eravamo in difficoltà, oggi è stata una gara mostruosa. Sono contento, grande gara, e volevo dire un'altra cosa. Beh, faccio i complimenti a Jorge, naturalmente. No, beh, vabbè, vincere nel giorno che ha vinto lui, non è che io corro per me, non corro per lui. Così Valentino Rossi subito dopo la vittoria di Sepang. Restiamo in Oriente perché oggi era la gran domenica dei motori in Oriente, dalla Malesia al Giappone, Gran Premio di Suzuka. Sapete tutti come è andata a finire, si è corso al termine di una giornata davvero incredibile. Nello stesso giorno prove che hanno dato la griglia di partenza e poi la gara, doppietta tanto in prova quanto in gara per la Red Bull, primo Vettel, secondo Webber, terzo Alonso, anche qui con un briciolino di fortuna che ha aiutato comunque una grandissima Ferrari, poi Button, Hamilton, Schumacher, Kobayashi, Heidfeld, Barrichello e Buemi. In classifica 14 punti dividono Alonso a quota 206 da Webber, 220, Alonso è stato ripreso anche da Vettel che anche lui a quota 206, ma è un passettino avanti perché ha vinto 4 Gran Premi contro i 3 di Vettel. Poi Hamilton e Button forse tagliati fuori dalla lotta al titolo. Classifica costruttori velocemente: Red Bull 426, McLaren 381, Ferrari 334. Carlo Vanzini. Allora Carlo, a freddo, anzi a freddissimo, perché la gara ormai è terminata da 6 ore e poco più. Insomma, cosa rimane di questo Gran Premio di Suzuka? Sicuramente il dominio Red Bull, ma una Ferrari che gioisce perché su una pista che era assolutamente a favore del team anglo-austriaco è riuscita a portare a casa 15 punti che sono fondamentali, no? Devo dire che Fernando Alonso ha fatto una gara molto consistente. È mancato quel duello con Lewis Hamilton quando Hamilton stava recuperando molto, poi ha avuto il problema al cambio, gli si è rotta la terza marcia, non potevo utilizzare la terza, è stato infilato anche dal compagno di squadra. Quindi è stato un po' un peccato per lo spettacolo non vedere Hamilton avvicinarsi a Fernando Alonso. Quindi in tal senso forse anche la fortuna di Fernando Alonso di poter gestire un podio senza la pressione di Lewis Hamilton alle spalle. Detto questo, non ha preso un quarto d'ora Fernando Alonso, che è quello che si temeva alla vigilia. È arrivato a ridosso delle Red Bull, è vero che i piloti Red Bull si sono messi in gestione gara, però la Ferrari ha dimostrato di poter andare forte anche su una pista dove sono nettamente più forti sulla carta gli avversari. Quindi Corea un'incognita, Brasile pro Ferrari, e poi tutto ci si gioca da Abu Dhabi. Questo Corea, almeno dovrebbe essere il cammino. Carlo, Corea è un'incognita perfino se si corre o meno, perché lì a Yongam, leggevo adesso su internet, pare che ci siano ancora i lavori in corso e domani c'è una verifica per capire se il 24 ottobre, cioè tra 14 giorni o poco meno, si corre davvero. Ma è possibile che nella Formula 1 2010 accadano queste cose? Insomma, veramente bizzarro, no? Beh, è possibile. Bernie Eccleston ha dichiarato si correrà di sicuro, quindi se lo dice Bernie Eccleston dobbiamo fidarci della voce del padrone. Certo è che bisognerebbe fare in modo di arrivare sui circuiti sicuri della possibilità di gareggiare, quindi magari dare anche un anno in più se la Corea vuole entrare, che entri nel 2011, ma ci deve essere la certezza di correre su una pista all'altezza e non che si arrivi con tutto preparato ancora in corsa. Quindi vedremo, insomma, è un'incognita per tutti. Credo si correrà, se l'ha detto Eccleston, si gioca molto la faccia anche lui. E quindi vedremo. Da un punto di vista tecnico sono tutti curiosi, perché nessuno sa effettivamente, al di là delle simulazioni, ma su una pista che nessuno conosce, simulazioni lasciano il tempo che trova. Senti, tanti ascoltatori via sms al 349-238-6666 e una sola domanda fondamentalmente: la Ferrari è favorita o può essere favorita dal fatto che ci sarà una competizione interna tra Vettel e Webber, che questa possa degenerare secondo te? Ma può essere, l'abbiamo sempre detto, l'arma in più di Fernando Alonso, però Fernando Alonso deve avere un Felipe Massa un po' più vicino, non un Felipe Massa che si ritira alla prima curva per incidente, ma anche per troppa foga forse di voler recuperare dopo una qualifica così. E quindi Alonso ha assolutamente bisogno di un Massa in zona, ma lo dico soprattutto per il Gran Premio del Brasile, dove sulla carta la Ferrari si gioca le grandi chance di vincere questo titolo mondiale, perché è la pista dove la Ferrari pensa di andare più forte della Red Bull. Quindi è lì che Fernando Alonso ha bisogno di Massa, una pista dove Massa è andato in modo sempre straordinario nel 2007 e nel 2008, ha vinto nel 2006. Se non avesse dovuto cedere la vittoria nel 2007, staremmo parlando di una tripletta di vittorie in Brasile. Quindi Alonso lì ha bisogno assolutamente di Massa, nel caso in cui ovviamente venisse confermato che la Ferrari è più forte della Red Bull. Tra i due, sì, sono ai ferri corti, credo. Oggi non si sono dati battaglia, però quel giro veloce alla fine di Mark Webber a togliere la trick a Sebastian Vettel... Era un segnale chiaro. Sì. Hai 10 secondi, Carlo, mi affido alla tua capacità di sintesi. Button e Hamilton a meno 41 e meno 28 in classifica da Webber sono fuori, un sì o un no? No. No, ci credi ancora? Nel primo o nel secondo, in Button o in Hamilton, o in tutte e due? Credo più in Hamilton, ma dobbiamo vedere. Se fanno una doppietta in Corea loro, è un'incognita per tutti, è riaperto anche per loro. Vedremo. Grazie in redazione a Giorgio De Luca, Pietro Lacorte in regia. Grazie ovviamente a Carlo Vanzini, che è stato con noi anche questa domenica. Appuntamento, Carlo, a domenica prossima. Si corre in MotoGP a Phillip Island, ma probabilmente saremo già proiettati sulla Formula 1 nel clima pre-Corea. Quindi ovviamente ti, tra virgolette, sfrutteremo soprattutto su questo. Grazie Carlo, buona domenica. Ciao Max, buona domenica a tutti. Grazie anche a tutti gli amici che ci hanno seguito fin qui. Adesso vi lascio l'informazione delle 17, poi il grande pomeriggio sportivo di Radio 24 continua con Carlo Genta. Continuate a scriverci e a chiamarci per la diretta. Sport e motori torna puntualissimo tra 7 giorni. Da Massimo Di Scienza l'augurio di un'ottima settimana. Ciao! Sport e motori.